Today we shall continue with our main theme for this retreat that is nicely captured in a gatha, in a verse from the 22nd Samyutta of the Samyutta Nikaya. Questa sera, oggi continuiamo con il tema principale per questo ritiro, che è ben colto da un gatha, cioè un verso da Samyutta Nikaya 22. The several gathas there, and the heading is for a long time. Often, O monks, O nuns, O lay retreatants, should one reflect upon one's own mind thus. Spesso monaci, monache e meditanti laici si dovrebbe riflettere sulla propria mente in questo modo. For a long time has this mind been defiled by greed, by hatred, by delusion. Per lungo tempo questa mente è stata inquinata dalla brama, dall'avversione e dall'illusione. Mental defilements make beings impure, mental cleansing purifies them. Gli inquinanti mentali rendono gli esseri impuri, mentre la purificazione mentale li purifica. Now, those certain three mental states of greed, hatred, and certain delusion collectively are being referred to as certain the roots of all unwholesomeness, akusala mula in the Pali scriptural language. Ci si riferisce a questi tre stati mentali della brama, dell'avversione e dell'illusione in maniera collettiva con il termine di akusala mula, cioè le radici di tutta la non salutarità. Now, those certain three mental states and roots of all unwholesomeness have their opposites that come in the form of non-greed, non-hatred and non-delusion. Questi tre stati mentali, queste tre radici, hanno i loro opposti salutari, e quindi la non brama, la non avversione e la non illusione. Now, the Pali term kusala can, according to context, convey meaning such as clever, expert, good, right. Il termine Pali Kusala, a seconda del contesto, può assumere il significato di intelligente, clever, expert, esperto, good, buono, right, giusto, skillful, abile, meritorious, meritorio, profitable, proficuo, wholesome, salutare, etc. As a religious technical term, it implies both in the Pali as well as in the Sanskrit scriptural languages a moral sense connoting morally good, profitable, wholesome actions of body, word and mind. E in senso spirituale, sia in Pali sia in sanscrito, ha questo ha il significato di could you please repeat the wholesome actions of the whole definition. Ah, as a religious technical term, they imply a moral sense connoting morally good, profitable, wholesome actions. Quindi indica uno stato morale buono, positivo, che implica delle azioni che sono moralmente buone e proficue. Mm-hmm. And salutare. And involving actions, wholesome actions of body, word, and thought, which are conducive to the attainment of Nibbana and the release from suffering. Quindi implica delle azioni compiute tramite la mente, il pensiero, la parola e l'azione che sono favorevoli alla felicità, che conducono a felicità e in ultima conducono, sono condizioni per il raggiungimento del Nibbana. Now, these twin concepts of kusala, namely wholesomeness, and akusala, unwholesomeness, occupy an important place in the Buddhist ethical teachings. Questa coppia di concetti gemelli, kusala e akusala, hanno un ruolo importante nell'insegnamento del Buddha. So this distinction between wholesomeness and unwholesomeness will come up in your, will be necessary to understand in your own meditation practice over and over again what is wholesome, what is unwholesome. Nella vostra pratica sarà necessario comprendere molte volte che cosa è salutare e che cosa è non salutare. Now, the characteristic of Nibbana, it is certainly said, is that it is free from greed, hatred, and delusion. So, in other words, it is free from the three roots of all unwholesomeness, akusala mula. Una delle caratteristiche del Nibbana è di essere libero da brama, avversione o odio e illusione. Quindi, in altre parole, di essere libero dalle tre radici della non salutarità. Now, greed, hatred, and certain delusion, if they drive our actions by body, speech, and mind, will lead to a prolonging of our existence in samsara. Se brama, avversione e illusione guidano le nostre azioni, questo porterà a un prolungamento della nostra esistenza nel samsara. Whereas the opposite qualities of non-greed, non-hatred, and non-delusion contribute eventually, as stated, to a realization of Nibbana. Mentre invece i loro opposti di non brama, non avversione e non illusione contribuiscono a al raggiungimento del Nibbana, come già detto prima. So in terms of trying to define what is unwholesomeness and what is wholesomeness, various definitions have been mentioned in the text. So akusala is whatever action that stands contrary to Nibbana and hinders its attainment. Nei testi sono state fornite molte definizioni di kusala e akusala. Una di queste per akusala è ciò che si mette di mezzo nella via del raggiungimento del Nibbana e quindi costituisce un ostacolo per il raggiungimento del Nibbana. Whereas wholesomeness kusala is whatever action that is in conformity with Nibbana and leads to its attainment. Mentre akusala è qualunque azione che sia conforme al Nibbana. Kusala. Kusala, scusate, è qualunque azione che sia conforme al Nibbana e quindi mette sulla via della sua realizzazione. The wholesomeness or the unwholesomeness of an action is determined by the presence of greed, hatred, and delusion on the one hand side, or the presence of non-greed, non-hatred, and non-delusion. Quindi la salutarità di un'azione è determinata, la salutarità o non salutarità di un'azione è determinata dalla presenza o dall'assenza di Brahma, avversione e illusione. No. The Ambalatika Sutta of the Majjhima Nikaya, which in English is given as advice to Rahula, contains further guidance as to what is wholesome and what is unwholesome. Il sutta dal Majjhima Nikaya che è intitolato consigli a Rahula, Rahula il figlio del Buddha, dà delle indicazioni importanti su sul salutare e non salutare. Now discourse is very nice. We have both the Buddha meditating as well as his son who's become a monastic, and then after the day's abiding, the Buddha visits the son, his son Rahula, in a place called Ambalatika, and then gives him a teaching on kusala akusala. In questo sutta troviamo sia il Buddha sia suo figlio Rahula che stanno meditando e dopo un certo tempo il Buddha va a visitare suo figlio in un luogo che si chiama Ambalatika. Ambalatika. Gli dà degli insegnamenti su che cosa è salutare e su che cosa è non salutare. No. The essence of that discourse can be condensed into one paragraph, and that goes as follows. Rahula, when you wish to do an action with the body, you should reflect upon that same bodily action thus. L'essenza di questo sutta può essere è illustrata in questo paragrafo. Rahula, dice il Buddha, quando stai per intraprendere un'azione tramite il corpo, dovresti riflettere su questa azione in questo modo. Would this action that I wish to do with the body lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? Questa azione che intendo intraprendere tramite il corpo porterà alla mia afflizione o sofferenza, porterà all'afflizione degli altri o porterà all'afflizione di entrambi? So that's one aspect. One aspect that's raised in the form of a question, and the Buddha goes on, is it an unwholesome bodily action with painful consequences, with painful results? Quindi questo è il primo aspetto che viene espresso sotto forma di una domanda. E poi il Buddha continua, e questa azione è un'azione non salutare che avrà delle conseguenze negative. When you reflect, if you know this action that I wish to do with the body would lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of Fatna both, it is unwholesome bodily, it is an unwholesome bodily action with painful consequences, with painful results, then you definitely should not do such an action with the body. E se trovi che questa azione è un'azione non salutare, che provoca sofferenza per afflizione per te, per gli altri e per entrambi, se trovi che è un'azione non salutare che genera, che ha conseguenze e risultati dolorosi, allora non compiere questa azione. But then when you reflect and you know this action that I wish to do with the body would not lead to my own affliction or to the affliction of others or to the affliction of both, it is a wholesome bodily action with pleasant consequences, with pleasant results, then you may do such an action with the body. Se invece riflettendo su questa azione vedi che non si tratta di un'azione non salutare e che non ha conseguenze, che non porta all'afflizione mia, dell'altro o di entrambi, e è un'azione invece salutare che ha delle conseguenze e dei risultati piacevoli, allora può intraprendere questa azione. Now, this certain particular statement here by the Buddha can be applied quite immediately to one's own meditation practice. Namely, when, especially for beginning retreatants, when one gradually becomes aware that any action is certainly preceded by what? E questo consiglio che dal Buddha può essere applicato alla propria pratica di meditazione in maniera quasi immediata. E nella nostra pratica ci rendiamo conto che ogni azione è preceduta da che cosa? So, how would you answer? Intention. There you go. That's it. Da un'intenzione. So one becomes aware of an intention to do something, to say something, or to think something. One notices a desire to do something. And it is at that point where mindfulness needs to come in, and we need to pause for a moment. Is what we intend to do really going to lead to our own affliction, others' affliction, or the affliction of both? Or is it certainly going to have the opposite, namely wholesome results? Quindi prima di compiere qualunque azione ci rendiamo conto che c'è un'intenzione di fare o di fare qualcosa, di dire qualcosa, e ed è a quel punto che deve entrare in gioco la consapevolezza, ci fermiamo un attimo e riflettiamo se questa azione porta alla sofferenza mia, degli altri o di entrambi. Riflettiamo se ha dei risultati positivi o negativi. No. We have still another definition, another way of defining what is kusala and what is akusala, this time with a greater emphasis on the individual. C'è un altro modo di definire che cosa è kusala e che cosa è akusala, e questa volta mettendo l'accento sull'individuo. In this evaluation of kusala and akusala, the individual is taken as the standard or the yardstick. In questo modo di valutare kusala e akusala, l'individuo è preso come metro di misura. Herein one is asked to compare others with oneself and refrain from doing against others such acts that one does not wish to be done to oneself. The first part, please. The first thing. No, in this, one compares oneself. One compares others with oneself and refrains from doing against others acts that one does not wish to be done to oneself. Quindi una persona paragona gli altri a se stesso e si trattiene dal fare agli altri azioni che non vorrebbe fossero fatte a se stesso. So this certain particular approach may help us again to come to some understanding of what is wholesome and what is unwholesome. E anche questa riflessione può condurre ad una comprensione di che cosa è salutare e che cosa è non salutare. Now, two references in this context are, first of all, verses 704 and 705 from the Sutta Nipata, and then verses 129 and 30. 130 from the Dhammapada. Ci sono diversi a questo riguardo Sutta Nipata. Sutta Nipata, versi 704-705 e and the Dhammapada 129-130. E il Dhammapada 199 e 130. No. The verse from the Sutta Nipata is as follows: being free from sensuous union, without aversion or attachment towards beings, however weak or strong they may be, comparing oneself to others in such terms as. I need a. Slowly, slowly. Being free from sensuous attachment. Essendo libero da attaccamenti sensoriali. Without aversion. Senza avversione. Or attachment towards beings. O attaccamento nei confronti degli esseri. However weak or strong they may be. Per quanto possano essere deboli oppure forti. Comparing oneself to others. Paragonandosi agli altri. In such terms as, just as I am, so are they. In questo modo, così come io sono, anche loro sono. Just as they are, so am I. E così come loro sono, anche io sono. He or she should neither kill nor cause others to kill. Lui o lei dovrebbe quindi non uccidere e non far sì che altri uccidano. Mm-hmm. So the point here is that certainly we reflect on, we realize that certain other human beings, just like ourselves, also seek happiness. E questo implica che vediamo che anche gli altri esseri, così come noi stessi, stanno cercando la felicità. No, Dhammapada verse 129 says, all are afraid of the stick, all fear death. E Dhammapada 129 dice, tutti temono, hanno paura della... all fear death. All are afraid of the stick and all fear death. Tutti hanno paura del bastone e della morte. Putting oneself in another's place, one should not beat or kill others. Mettendosi nei panni degli altri, uno non dovrebbe colpire o uccidere gli altri. And then, Dhammapada verse 130 is almost identical. All are afraid of the stick, all hold their lives dear. E l'altro verso del Dhammapada è quasi identico. Tutti temono il bastone e tutti... And all hold their lives dear. E tutti hanno cara la propria vita. Putting oneself in another's place, one should not beat or kill others. Mettendosi nei panni dell'altro, uno non dovrebbe colpire o uccidere gli altri. So here, putting oneself in another's place, putting oneself in the shoes of another person, that's your yardstick. So if at times you don't quite know whether an action that you're thinking of taking, whether it's wholesome or not, just do that and just put yourself into the other person's shoes and then see whether you would like such an action to be done to you or not. Quindi mettersi al posto dell'altro, mettersi nei panni degli altri è il metro con cui misurare se qualcosa è salutare o non salutare. Quindi ogni volta che abbiamo un dubbio sulla salutarità o non salutarità di un'azione, proviamo a metterci nei panni degli altri e questo ci darà, quindi vedere se vorremmo che quella cosa ci venisse fatta e questo ci darà un'indicazione. No. Underlying kusala and akusala is a really important assumption, namely that kusala and akusala are within, or that one has, that one is free to choose among the two. C'è una implicazione importante che sottostà ai concetti di kusala e akusala ed è che uno ha la libertà di scegliere tra i due. And certainly the Buddha is very clear about kusala and akusala, the choice to abandon akusala and to develop kusala. E il Buddha è molto chiaro rispetto alla scelta di abbandonare akusala e di scegliere invece il kusala. And he says, he clearly states that it is possible to develop wholesomeness and that certainly this will result in happiness. E dice molto chiaramente che è possibile sviluppare, coltivare la salutarità e che questo conduce alla felicità. Now, the relevant passage or reference for this is to the first volume of the Anguttara Nikaya in section 58. C'è un verso rilevante a questo proposito dall'Anguttara Nikaya, prima sezione, verso 58. In certain that discourse is known as the Kusala Sutta, in other in English, skillful. E questo il sutta è intitolato Kusala Sutta, che è tradotto come abile. Abandon what is unskillful, the Buddha says. It is possible to abandon what is unskillful. Abandon what is unskillful. Abbandonare ciò che non è abile. È possibile abbandonare ciò che non è abile. If it were not possible to abandon what is unskillful, I would not say to you, abandon what is unskillful. Se non fosse possibile abbandonare ciò che non è abile, non ti direi di abbandonare ciò che non è abile. But because it is possible to abandon what is unskillful, I say to you, abandon what is unskillful. Ma siccome è possibile abbandonare ciò che non è abile o non è funzionale, allora ti dico, abbandona ciò che non è abile. If this abandoning of what is unskillful were conducive to harm and pain, I would not say to you, abandon what is unskillful. Se l'abbandono di ciò che non è abile conducesse al dolore e alla sofferenza, non ti direi di abbandonare ciò che non è abile. But because this abandoning of what is unskillful is conducive to benefit and pleasure, I say to you, abandon what is unskillful. Ma siccome l'abbandono di ciò che non è abile conduce a beneficio, a effetti benefici e conduce al piacere, allora ti dico, abbandona ciò che non è abile. So that's certainly with regard to Kusala and with regard to Kusala. In the same discourse, the Buddha goes on to say, develop what is skillful. It is possible to develop what is skillful. E nello stesso, sempre in questo sutta, poi il Buddha continua, sviluppa ciò che è abile. È possibile sviluppare ciò che è abile. If it were not possible to develop what is skillful, I would not say to you, develop what is skillful. Se non fosse possibile sviluppare ciò che è abile, non ti direi sviluppa ciò che è abile. But because it is possible to develop what is skillful, I say to you, develop what is skillful. Ma siccome è possibile sviluppare ciò che è abile, allora ti dico, sviluppa ciò che è abile. So if this development of what is skillful were conducive to harm and pain, I would not say to you, develop what is skillful. Se lo sviluppo di ciò che è abile conducesse al danno e al dolore, non ti direi di sviluppare ciò che è abile. But because this development of what is skillful is conducive to benefit and pleasure, therefore I say to you, develop what is skillful. Ma siccome lo sviluppo di ciò che è abile conduce a beneficio e a piacere, allora ti dico, sviluppa ciò che è abile. So in other words, because it is possible to train in virtuous conduct, to train in concentration, and to train in wisdom. Because it is possible to do this, the Buddha has recommended doing it. Quindi, siccome è possibile addestrarsi nella salutarità, nel fare ciò che è buono, ciò che è abile, allora per questo il Buddha lo ha raccomandato. And certainly, the Buddha, before becoming an enlightened being or before gaining enlightenment, he himself was certainly just an ordinary human being. And as such, by making huge effort, he did develop the necessary qualities and eventually gained supreme enlightenment. E il Buddha stesso, prima di ottenere l'illuminazione, era un essere umano ordinario e proprio in virtù dello sforzo che ha compiuto per sviluppare le buone qualità è riuscito ad ottenere l'illuminazione. No. The Buddha does sadhana acknowledge the certain freedom of sadhana choice in the context of conditionality, namely the choice between what is wholesome and unwholesome. Il Buddha riconosce la l'esistenza di una certa libertà all'interno del condizionamento e precisamente la libertà di scegliere tra ciò che è salutare e ciò che è non salutare. The Buddha's teachings certainly do acknowledge a certain amount of capacity for personal initiative. E gli insegnamenti del Buddha riconoscono possibilità di la presenza di una certa dose, diciamo, di capacità di iniziativa. We have the capacity for personal action or individual action. Abbiamo la capacità di compiere delle azioni individuali. And because of this, this twin concept of kusala, akusala, wholesomeness and unwholesomeness is so important. Ed è proprio per questo, in virtù di questo, che è così importante questa coppia di concetti, kusala e akusala. Now, the Abhidhamma classifies certain relevant terms, defines relevant terms, and it has also given a clear-cut definition for kusala and akusala. So it says, kusala has the characteristic, kusala has faultless, happy results as its characteristic. Which does this? Kusala. No, no, but in which does? Oh, that's Abhidhamma. Nell'Abhidhamma si danno delle definizioni chiare di kusala e akusala, e una di queste per kusala è che kusala ha senza errore, senza possibilità di errore, dei risultati positivi. Mm-hmm. The destruction of unwholesomeness is said certain to be its function. E la sua funzione è la distruzione del non salutare. And purity is given as its certain manifestation. E la purezza ne è la manifestazione. And wise attention is said to be the proximate cause for the arising of kusala. E la causa prossima per il sorgere di kusala è la saggia attenzione. Now, in the case of akusala, its certain definition is as follows: unwholesomeness, akusala, has faultiness and bad results as its characteristic. Mentre akusala ha come caratteristiche la manchevolezza e i risultati negativi. Opposition to wholesomeness is said to be its function. La sua funzione è l'opposizione alla salutarità. And the production of harm or misfortune is said to be its second function. E la sua seconda funzione è la produzione di sfortuna. Misfortune and harm. E di danno. Yeah. And in terms of manifestation of akusala comes as obscurity or turbidity of the mind. E la sua manifestazione è una oscurità o una intorbidimento della mente. And as for, you know, the proximate cause for the arising of Akusala, we have unwise attention. E la causa prossima per il sorgere di Akusala è un'attenzione non saggia. No. During this Satna Veri retreat, you will be applying, you know, the instructions from the Satipatthana Sutta and other, you know, relevant discourses, and you'll be observing bodily formations, you'll be observing mental formations. Durante questo ritiro applicherete le istruzioni date nel Satipatthana Sutta e in altri sutta e osserverete le formazioni fisiche e mentali. And so during the first couple of days of this Satna retreat, it is quite likely that Satna you will come across mental states such as, well, drowsiness. I've heard that many times this morning during the interviews. And Satna then, what else? Restlessness. And certainly there might also be a desire for a cup of coffee or for, you know, to smoke a cigarette, or there could be aversion towards this or that object. There could be a skeptical doubt arising with regard to the practice. Nei primi due giorni del ritiro è abbastanza probabile che sperimentiate alcuni stati, come ad esempio della sonnolenza, del torpore e dell'irrequietezza, dell'avversione per questo o quell'oggetto, magari il desiderio di un caffè o di fumare una sigaretta o del dubbio scettico rispetto alla pratica. No. By continuing with one's certain mindfulness observation of predominant objects, quite certain soon a number of other mental states are likely to arise. So some calmness might arise, some clarity might be there, some contentment might be there, etc., etc. Continuando con la consapevole osservazione dell'oggetto, è probabile che sorgano altri stati mentali, come la calma, della chiarezza e della contentezza. And so then the question that you might take into your meditation practice would be, among the two, restlessness, agitation on the one hand side, and calmness, which one is kusala, which one is akusala? E una domanda che potete portare nella vostra pratica è: tra questi due stati, da una parte l'irrequietezza e dall'altra parte la calma, quali di questi due è kusala e quali di questi è akusala? And certainly yet another question to investigate in your own practice, namely being overwhelmed with sloth and torpor on the one hand side, and on the other hand having plenty of energy, which one among those two is kusala, which one is akusala? Un'altra cosa da investigare è, da una parte abbiamo l'essere sopraffatti dal torpore e dalla pigrizia, dall'altro lato abbiamo dall'indolenza, dall'altro lato abbiamo invece l'energia. Quale di questi è kusala e quale di questi è akusala? And certainly then yet another pair that is likely to arise consists in the experience of skeptical doubt on the one hand side, and On the other hand, you might experience faith in the practice. Un'altra coppia che possiamo, di stati che possiamo sperimentare, da un lato il dubbio scettico e dall'altro lato invece può sorgere della fede. Now, those are just a few questions to take along into your practice. This twin concept of kusala and akusala, you can explore it much further than this. The Buddha speaks of altogether how many mental factors? 52. And among those, we have some that are clearly defined as unwholesome mental states, and there's 14 of those, and we have 25 that are considered to be beautiful mental states. Queste sono alcune domande che potete portare nella vostra pratica, ma sono solo alcuni esempi di stati che potreste sperimentare. Ce ne sono molti altri che potrete sperimentare e indagare. Il Buddha parla di 52 fattori mentali, e di questi 52, 14 sono non salutari, mentre 25 sono salutari. Now, among the unwholesome ones, we have the four universal unwholesome mental states, and those consist of delusion, of shamelessness, of fearlessness, of wrongdoing, and then of restlessness. E di questi tra questi 14 stati non salutari ci sono i quattro universali non salutari, che sono l'illusione, l'assenza di vergogna morale, l'assenza di paura morale e l'irrequietezza. And then there's 10 more for you to be explored. E poi ce ne sono altri 10 da esplorare. And then among the beautiful mental factors, we have mental factors such as? Tra gli stati mentali salutari, che sono chiamati belli stati mentali, quali sono presenti? Could you name one or two? Stati. Joy? My joy is so. Gioia così, infatti. Gioia comes in a different category. Any wholesome mental state? No wholesome mental states? Peaceful. So if you mean by peacefulness, if that covers calmness, serenity, then yes, that would be a wholesome one. Quindi la pace, se con pace intendiamo anche una pace che ha le qualità della calma e della serenità. Now, at least one more wholesome mental state. What's that? Compassion. Compassion is a wholesome mental state, yes. Sì, la compassione. Ah, equanimity, yes, very good. L'equanimità. It's after thinking about all the time. So what you're practicing here involves primarily mindfulness, and this, at least according to Theravada classification, is certainly considered to be a wholesome mental state. Quindi sati, la consapevolezza, che è ciò che pratichiamo qui e che è considerato uno stato mentale salutare. Now, this pretty much brings us to the end of today's Satna Dhamma Talk. Allow me to conclude Satna by wishing may you take this division into, or distinction into kusala on the one hand side and akusala on the other side. May you take that distinction into your own practice, and then on occasion when a predominant mental state satna arises, check for yourself whether you would say this is wholesome or unwholesome. Also, when you plan to do something, say something, think something, and you're not quite sure whether it's wholesome or unwholesome, well, then take one of those yardsticks given and apply it to the situation. Permettetemi di augurarvi di portare questa divisione tra questa distinzione tra kusala e akusala nella vostra pratica, di indagare quando sperimentate uno stato mentale dominante se sia salutare o non salutare, e prima di intraprendere un'azione prendete come metro di misura, di valutazione, quello che è stato offerto dal Buddha, come spiegato prima. And may as much non-greed, non-hatred and non-delusion arise and eventually lead you to the realization of Nibbana in this very life. Okay, and this is it. E possa sempre più non brama, non avversione e non illusione sorgere in voi, e che questo possa condurvi al raggiungimento del Nibbana in questa stessa vita.